Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, anche questa settimana giochiamo in casa e non molliamo. Personal Best per ora continua nonostante le difficoltà e cerchiamo insomma di mantenere le distanze, ridurre al minimo gli spostamenti, anche per lasciare giustamente risorse e spazio a tutti gli aggiornamenti che quotidianamente potete seguire qui da Radio 24. Aggiornamenti sul coronavirus in tutti i suoi aspetti, ma non solo. Stiamo facendo tutti, credo di poterlo dire, un grande sforzo per mantenere sempre alta la qualità del nostro prodotto in tutte le sue declinazioni e con grande stima vorrei dire ai miei colleghi che almeno a mio avviso insomma la passione si sente. Dopo questa premessa forse non necessaria ma dovuta, veniamo a noi che solitamente da questo microfono parliamo di un mondo che corre ma come abbiamo detto anche nelle scorse settimane, anche per ora rimane insomma un po' al palo, come si dice, rimane fermo. Parliamo però di Olimpiadi di Tokyo 2020, appuntamento tanto atteso ma che per ovvi motivi andrà in scena nel 2021, come abbiamo sentito durante la settimana anche qui dai microfoni di Radio 24, anche se insomma la dicitura rimarrà Tokyo 2020. Noi amatori maratonetti della domenica ci siamo visti cancellare i nostri obiettivi primaverili, ma per chi corre ai massimi livelli insomma si è visto cancellare un evento atteso e preparato da anni. Ed è il caso della maratoneta Valeria Straneo che è in collegamento con noi. Ciao Valeria. Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, sì, sono in clausura, ma sto bene. Allora, Valeria, il problema di questa Olimpiade sembrava dovesse essere il caldo, ma qui abbiamo alzato un po' troppo il livello di difficoltà, mi sembra. Ma un po' tanto direi. Guarda, a parte che io non ero comunque certa di partecipare all'Olimpiade perché avrei dovuto fare ad aprile la maratona che speravo mi permettesse di andarci e quindi avrei dovuto correre ad Amburgo il 19 di aprile e ovviamente per motivi di forza maggiore non si potrà fare questa qualificazione e quindi non lo so, adesso speriamo, visto che le hanno posticipate, di riuscire in qualche modo a riprendere la forma e di farlo questo benedetto minimo. E cos'hai pensato martedì quando è arrivata la notizia? Te l'aspettavi? Ma io me l'aspettavo assolutamente, ma hanno fatto una cosa comunque giustissima. Come puoi pensare adesso che siamo nel pieno della crisi di organizzare un evento simile che comunque porta in un unico luogo gente di tutto il mondo, per cui c'è anche un pericolo per gli atleti e tutti quelli che lavorano intorno a questa grande macchina organizzatrice che sono le Olimpiadi, per cui assolutamente giusto, purtroppo siamo tutti nella stessa barca. E poi comunque magari gli stati come la Cina che sono già fuori da questa pandemia, comunque non è detto che gli altri stati siano già fuori e quindi il fatto che molta gente non avrebbe potuto conseguire i minimi per partecipare anche lì non è giusto, comunque che magari certi stati possono partecipare, altri no, per motivi appunto legati ai contagi, per cui mi sembra un'ovvia decisione saggia di posticiparle di un anno. È brutto anche perché io sono proprio lì nel caso in cui ci dovessi andare, nel senso ho già una certa età e so quanto è difficile stare intera, stare sana, stare in salute. E per cui un anno, farle slittare ancora di un anno avanti per me è abbastanza dura. Però ti dico, devo stare bene, vediamo i risultati se continuano ad essere comunque buoni come sono stati negli ultimi mesi perché... Certo. Stavo veramente bene. Stava andando tutto bene, insomma. Non per mettere il dito alla piaga, però. Finalmente sì, stava andando bene. Avevo appena fatto un raduno a Tirrenia con la nazionale prima che esplodesse tutto questo casino. E con la Giovanna Epis ci eravamo allenate veramente bene. Poi dopo i campionati italiani di mezza... Insomma, ho fatto una buona gara, per cui finalmente cominciava a girare. E vabbè, cosa ti devo dire? Infatti, il titolo italiano il 16 febbraio è a Verona, 1:11:34, e sembra un'altra vita, sembra tantissimo tempo fa almeno. Ma è vero, è cambiato tutto in pochissimo tempo. Hai completamente ragione. Mi sembra che siamo passati, non lo so, 2 anni. Davvero, le cose sono cambiate in una maniera impensabile. Ma davvero, ma chi se l'andava a immaginare una cosa così? E comunque, per carità, ci sono cose ben più importanti dello sport, anche la salute dei nostri cari, dei nostri amici, sì. Per cui la cosa importante alla fine è quella. E certo che dispiace, ovviamente, perché per un atleta posticipare di un anno è tantissimo. E quanto è difficile rimanere motivati in questi casi? Guarda, anche in questa fase? è veramente. Sì, è veramente tanto difficile. Infatti, vado un po' a fasi alterne. Non posso mollare ovviamente completamente perché significherebbe ricominciare veramente da capo e in questi ultimi anni ho ricominciato troppe volte da capo. E so la fatica che si fa, per cui cerco comunque di mantenere una certa facilità di comunque di corsa, di allenamento, di non andare proprio giù completamente. Però la motivazione appunto è difficile da ripescare perché adesso non abbiamo assolutamente idea di quando possano riprendere le gare, probabilmente a settembre, ottobre, comunque in autunno, e quindi hai tanti mesi davanti. Però mi dico, cavoli, io se c'è una maratona ad ottobre, novembre, a parte che adesso tutte le majors le Cioè, hanno sarà un buttate calendario giù, pazzesco. esatto, per cui probabilmente potremmo farne anche 2 o 3 al giorno e non ci saranno problemi. E quindi mi dico, dai, sarebbe bello riuscire a partecipare e riuscire magari a fare il minimo per le Olimpiadi proprio in una di queste maratone a fine anno, che è abbastanza comunque vicino. Solo che adesso ovviamente tutti, non solo io ovviamente, ci sono dei grossi disagi per potersi allenare normalmente, non Infatti. ci si può allenare normalmente, per cui uno cerca di fare quello che può, un po' correndo fuori poco e facendo anche tanti lavori indoor, per esempio, non lo so, io faccio tanti esercizi, corpo libero, Pilates, potenziamento, ho allestito nella mia sala Una una piccola piccola palestra. palestrina, ma già da prima che succedesse questo casino, e quindi ho la spin bike, cerco di fare alternativo e di mantenermi comunque in forma facendo tutti i giorni qualcosa. Comunque tu sei una professionista e quindi hai il permesso di correre fuori. Sì, appunto, diciamo che non si capisce benissimo perché dal decreto dell'8 marzo, 11 marzo, adesso non ricordo, sì, c'era appunto questa dicitura che diceva che gli atleti professionisti comunque possono uscire ad allenarsi, considerato un po' come un lavoro, no? Certo. Però di fatto poi le ordinanze della provincia, della regione comunque limitano ulteriormente questa situazione, per cui io non ho ancora capito se sono nel giusto o meno, cioè per non sbagliare comunque sto nei pressi di casa, mi faccio un po' di giri lì sperando Metti nel comunque. mezzo, diciamo. Sì, esatto, comunque esco con la mia autocertificazione e certificazione federale che dice che sono comunque un atleta di interesse nazionale, per cui spero che se mi dovessero fermare, insomma, di Di essere in essere regola, comunque nel insomma. giusto e continuo comunque a riuscire a correre. Non è facile perché il clima che si respira non è tanto pro runner, Infatti, quindi credo amichevole, proprio insomma. no. Non è molto, esatto, non è molto amichevole, per cui ti dico, sto facendo un po' fatica anche proprio ad uscire, anche se sono sempre andata da sola, lontana da tutti, in Infatti. mezzo ai campi, per Tu cui. esci di casa e sei da sola lì praticamente, in mezzo alla campagna. Ma no, perché all'inizio devo fare un paio di chilometri comunque nel quartiere, ma è un quartiere molto molto tranquillo e quindi non, sì, incontro magari qualcuno col cane, qualcuno che fa la spesa, ma cioè siamo veramente a 10 metri di distanza, per Poi cui. passi talmente veloce che non ti vedono neanche praticamente. Dipende se ho le gambe cariche dal potenziamento, perché adesso facendo tutti questi esercizi in casa ho sempre le gambe inchiodate e quindi non sono così veloci. Hai anche allestito, Valeria, dei rulli per fare un po' di bici nella tua No, stanzetta? O? No, la spin bike, questa ce Ah, l'ho bene, già allora. da un po', essendo che ho dovuto fare parecchi allenamenti alternativi con tutti gli infortuni che ho avuto. Allora adesso diciamo che sono a posto, ho un bel po' di attrezzi, elastici, fitball, tappetini, pesetti, no, c'ho di tutto, di tutto. Non ci stiamo più noi perché in quattro Ecco. comunque in casa. E non è tanto grande, poi uno studia di là, l'altro alla Ah, ecco. lezione, quindi io sono chiusa in stanza da letto così non ci disturbiamo. Valeria, in chiusura, tu hai già corso, insomma, l'Olimpiade di Londra Sì. 2012, Rio 2016, la terza Olimpiade, diciamo che è un sogno posticipato, possiamo dire. Sì, io ci credo ancora comunque, perché ripeto, stavo veramente bene adesso, finalmente dopo anni che non sentivo più certe sensazioni. Ti dico che raduno a Tirrenia sono riuscita a fare di nuovo una mole di chilometri veramente alta, cioè sono arrivata quasi a 190 km alla settimana, cosa che non, e stando Chiaro. bene, sottolineo, stando bene, cioè non subendo, finalmente come mi allenavo prima, per cui mi ha dato una grande carica di fiducia, perché posso dire, sì, è vero che ho quasi 44 anni, però se sto ancora bene così, perché no? E quindi non è che mi pongo limiti legati all'età. Ovviamente il limite me lo dirà il mio fisico, se continuo di nuovo a incappare in infortuni, alla fine boh, basta, uno si arrende. Però per adesso, dai, forse ancora una cartuccia da sparare Dai, ce l'ho. sì. Ma Grazie sì, sicuramente. Valeria Straneo. Grazie a voi. E noi continuiamo con un'altra maratonetta, uno a caso, il primatista italiano di maratona, Job Faniel. Ciao Job. Ciao ragazzi, ciao. Come va? Tutto bene, tutto bene. Allora, l'anno era iniziato alla grande, dopo quella fantastica Bo Classic, una gara pazzesca e il nuovo record italiano sulla maratona che ha ottenuto il 23 febbraio a Siviglia 2:07:19, che ti aveva messo in tasca, tra l'altro, un biglietto per il Giappone per le Olimpiadi. Ora i sogni olimpici sono solo rimandati, come ha detto poco fa Valeria Straneo. Certo, io devo dire che sono anche abbastanza fortunato il fatto di comunque di avere 20, ancora 27 anni, quindi per me cambia poco, anzi forse è meglio visto che comunque un anno in più è solo qualche esperienza in più. Cosa hai pensato quando è arrivata la notizia, però? Guarda, sicuramente un po' ci rimane male perché comunque fai tanti sacrifici e comunque è più di un anno che preparo queste Olimpiadi e anche le gare che ho fatto sia nell'anno scorso che quest'anno e sono tutte comunque erano basate per le Olimpiadi, sia per il minimo, tutte le altre gare che ho fatto e quindi un po' ci rimane male, però prima di tutto la salute, come ho sempre detto, poi guardando, io mi ritengo fortunato anche guardando le persone che stanno male e quelli che hanno perso i genitori o parenti, quello che è, per me io mi sento fortunato perché comunque io sto bene, i miei familiari stanno bene e quindi va bene così ed era giusto rinviarmi. Hai anche tu la sensazione che quel 23 febbraio, la giornata del tuo primato italiano sulla maratona, sembri lontanissimo nel tempo, insomma, che non sia passato solo un mese in qualche modo? È passato solo un mese, ma non so perché siamo rinchiusi in casa, quindi il tempo non passa mai. Sembra passato proprio tanto, sì. Stai continuando ad allenarti tu? Io allora sono stato fermo una settimana dopo la maratona per poi riprendere perché comunque c'erano gli obiettivi mondiali di mezza maratona a fine marzo e mi sono allenato Oggi, tra l'altro. oggi e sono stato fermo una settimana, poi ho ripreso, mi sono allenato una settimana e mezza finché hanno rinviato questi mondiali e quindi mi sono fermato e sono stato fermo altre 2 settimane comunque per recuperare dopo la maratona. Poi ho ripreso 4 giorni fino al nuovo decreto che diceva che comunque non potevamo uscire ad allenarci e fuori, che era giusto perché comunque erano saltate anche le Olimpiadi e quindi da lì in poi mi sono. Per fortuna io ho il giardino, quindi mi sto allenando bene in casa Ah, e ok. in più il Bassano devo ringraziarli perché comunque mi hanno lasciato il campo d'atletica, mi hanno aperto il campo d'atletica come comune del Bassano e quindi mi sto allenando comunque al campo d'atletica di Bassano. Quindi fai esercizi in casa, hai anche i rulli con la bici? Sì, tutto quanto, Ah, io per ok. fortuna faccio tutto a casa, ho un po' di pesetti e l'elastico, soprattutto faccio gli esercizi e mi diverto anche con la bambina perché ho una bimba e ci divertiamo. Quanti anni ha? Allora, la mia bimba si chiama Wintana e ne ha 3 anni e mezzo, quindi è proprio l'età giusta per divertirsi. Per godertela un po' a casa, insomma. Certo. Tanto tu sei stato via un po', no? Sei stato ad allenarti in Kenya, no? Sì, prima della maratona sono stato via tutto il dicembre, che sono stato in Eritrea, poi sono tornato, sono rimasto a casa 4 o 5 giorni, sono ripartito per il Kenya, sono stato 3 settimane in Kenya, sono tornato, ho fatto una gara e poi sono ripartito di nuovo per l'Eritrea. Quindi 3 mesi che sono in giro per il mondo, che per me e per la bimba e per la mia compagna, comunque questo periodo ci stiamo divertendo, stiamo cercando di recuperare tutto il tempo perso. Non stai pensando di correre una maratona casalinga, no? No. Tutto ma non questo. Tu sei un professionista, quindi potresti comunque, avresti il diritto di correre anche fuori. Certo, però sì, infatti, come dicevo prima, mi sono allenato comunque fino al nuovo decreto e soprattutto fino a quando hanno deciso di rinviare le Olimpiadi, e mi sono allenato anche fuori. Poi però, come dicevo prima, le Olimpiadi sono saltate, non ci sono gare a breve termine, quindi è inutile prima di tutto farsi vedere in giro quando gli altri comunque sono in casa, quindi anche se non è così la gente la vede male, comunque non conoscendoti, vedendoti correre solamente pensa male, e l'unica cosa che mi viene in mente è dire perché io a casa, loro fuori, e noi dobbiamo essere ad esempio, quindi facciamo il possibile per dare il buon esempio. E poi tu fai parte del gruppo sportivo della polizia, c'è il rischio che ti fermino i tuoi colleghi, no? Certo, mi hanno fermato i colleghi dei carabinieri, quindi, però ovviamente, come dicevo prima, ho il permesso, quindi avevo il permesso e quindi andava tutto bene, mi hanno rilasciato subito. In autunno a questo punto il calendario delle gare sarà densissimo, hai già in mente qualcosa? Guarda, non abbiamo ancora deciso, perché comunque dobbiamo aspettare anche per capire se verranno fatti o no gli europei di cui ci sarà la mezza maratona, quindi che farò la mezza maratona, quindi aspetterò fino a quando ci sarà questa decisione e poi decideremo, ecco. Preferenze, a me piacerebbe tantissimo, se no, anche se non la faccio quest'anno, nei prossimi anni sarebbe comunque un sogno fare la maratona di New York, speriamo, vediamo un po' come gestire questa situazione. L'importante è uscirne fuori da questa situazione brutta, da questo incubo. E Yobi, infatti, in chiusura, appena questa situazione sarà finita, e speriamo insomma presto, riprenderai con le gare, dovrai probabilmente rispettare le distanze di sicurezza, sarai costretto a metterli tutti dietro. Speriamo bene, visto che siamo rinchiusi tutti quanti usciremo fuori abbastanza scarsetti, però dai, l'importante è uscire fuori, correre, divertirsi e tornare alla vita di prima, ecco. Grazie mille Yobi Faniel. Grazie a voi, ciao. Grazie di cuore. E noi anche per oggi ci fermiamo qui, consci del fatto che lo sport non è tra le priorità del momento, ma parlarne alle volte fa bene quanto praticarlo. Noi nel frattempo ci risentiamo domenica prossima, sempre alle 6.30, alle 16.15, e poi quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona domenica a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.